tanto che cammini e non senti male ai piedi. Ti seguo già da un po'. Guardi con due occhi neri e stanchi e non mi vedi e passi avanti. Io ti seguo ancora per un po'. Chi l'avrebbe detto prima che io un giorno sarei andato dietro a te, come quando un uomo cerca di io. Questa corsa non ha senso se il senso l'ho già perso dietro te. Vorrei odiarti un po', senza nemmeno amarti, e vorrei amarti poi, senza nemmeno conoscerti. E intanto Londra brucia intorno a noi. Londra brucia, uccidi ogni sguardo su cui cadi. Io ti osservo già da un po' e ti perdi negli tuoi stessi occhi stanchi, e mi illudi e passi avanti. Forse aspetto un altro po'. Chi l'avrebbe detto prima che io un giorno avrei perso tempo dietro a te, come quando un uomo cerca di io, non lo trova e più impazzisce. Io impazzisco se rimango ancora senza te. Vorrei odiarti un po', senza nemmeno amarti, e vorrei amarti poi, senza nemmeno conoscerti. E come quando un uomo perde Dio, io non voglio capire in fondo. Ti fermo, tu che dici? Non ci sei già. Più niente, pianti, solo il ricordo di alcuni istanti stretti a dovere intorno alla pancia come una cinghia per non dimenticare il tempo che fugge verso i tuoi giorni che sono niente, ora che anch'io non ho direzione e vago nel buio, non ho destinazione e dammelo tu un nuovo indirizzo dove trovarmi appeso allo specchio ad ogni ritorno, un nuovo ritratto ad ogni ritorno appeso allo specchio, un nuovo ritratto ad ogni ritorno, un nuovo ritratto appeso allo specchio.